Barroso ha dunque posticipato il voto del Parlamento sulla Commissione europea, sottraendosi quindi ad una previsibile sconfitta. Peccato, il rituale di una sconfitta è anche un vissuto politico e resta memorabile non solo in termini di contenuto ma anche di immagini. Queste immagini della vittoria non ci saranno e il Parlamento europeo resterà nell'immaginario dei cittadini un'eminenza grigia. Pur sempre eminenza però, fino a ieri non lo era. Berlusconi si poteva tranquillamente permettere di definirne i rappresentanti turisti della democrazia e loro non potevano ribellarsi. Ora, per la prima volta, l'Europa esercita la propria forza e lo fa semplicemente tramite lo strumento democratico per eccellenza, il proprio Parlamento. Da giorni era chiaro che i 42 parlamentari verdi avrebbero votato contro l'equipe di Barroso, cosa che avrebbe fatto anche la Sinistra Unita con i 41 parlamentari. Anche gli euroscettici e l'estrema destra erano intenzionati a provocare una crisi istituzionale. Il cappio intorno al collo di Barroso si è stretto quando oltre ai 200 socialisti, anche gli 88 liberali hanno manifestato l'intenzione di non votare per la commissione di Barroso per un totale di 731 parlamentari. Barroso non poté che chiedere un rinvio. Tutta colpa di Buttiglione? Certo, Buttiglione ha fatto di tutto per non rendersi gradito, ma la situazione ha avuto una sua inevitabile progressione e soprattutto oltre a Buttiglione anche altri due candidati non avevano per nulla l'appoggio del Parlamento, l'ex ministro degli esteri ungherese Laszlo Kovács che per inesperienza e la lettone Ingride Urdre per il sospetto di corruzione. Insomma, quando Buttiglione ha parlato per la prima volta il Parlamento era sorpreso, ma non credeva certo che si sarebbe arrivati a tanto, evidentemente non lo credeva neanche Buttiglione. Si è però messo in moto un meccanismo progressivo di fiducia nei propri mezzi. Berlusconi e la sua stampa italiana hanno fatto partire il loro solito linciaggio mediatico, Parlamento ideologizzato, antidemocratico, irrispettoso dei valori culturali e via discorrendo. Buttiglione ha ritirato le proprie convinzioni, buttando ulteriore olio sul fuoco, il ruolo della donna, la donna che educa da sola, le ragazze madri, tutto in una sfida aperta, acuta e molto ingenua all'autorità del Parlamento. Man mano che la stampa italiana linciava, man mano che Buttiglione continuava a parlare, man mano che la destra italiana si scalmanava con Tremaglia, ogni singolo gruppo politico del Parlamento europeo trovava dei buoni motivi individuali per non votare l'esecutivo di Barroso. Tutti divisi però, ognuno per conto suo. Poi è stato Barroso a fare l'unità. Non bisogna dimenticare che quando Barroso è stato scelto per succedere a Prodi, era un candidato di riserva, che il suo nome è saltato fuori all'ultimo momento dopo mesi di contrattazioni e veti incrociati. Un candidato già in partenza molto debole, quindi, noto per la sua abilità a sfuggire lo scontro diretto e per le sue capacità linguistiche. Quando Barroso ha quindi presentato la sua commissione, dopo settimane di confabulazione con i vari governi per la presentazione dei candidati, il gruppo che ne è emerso era un gruppo eterogeneo, che non premiava le competenze dei singoli, ma le diplomazie nazionali. Questo è il giudizio di tutti, prima ancora che a Buttiglione fosse data la possibilità di aprire bocca. L'esecutivo nuovo, insomma, nasceva debole, e debole era Barroso. Proprio nei giorni in cui Barroso veniva scelto, poi, veniva presentata la nuova Costituzione europea. E la Costituzione fu male accolta, tutti i commentatori ne rilevarono la complessità. Ricordammo che mentre la Costituzione italiana consta di un libricino che tutti possono leggere, quella europea è un documento specialistico di oltre 200 pagine, la cui complessità può essere decifrata solo dagli addetti ai lavori. Questa cosa e le polemiche che sollevò nei vari paesi, anche in seno ai partiti più europeisti come il Partito Socialista francese, non fecero altro che indebolire in blocco le istituzioni europee tutte. E questo per un motivo preciso: gli interessi nazionali avevano prevalso sulla semplicità e sulla comunitarietà europee. Barroso ha presentato una commissione che era espressione esclusiva degli interessi nazionali, che trasparivano tra l'altro in maniera clamorosa proprio nel caso dell'Italia. A Mario Monti, stimatissimo e un tempo confermatissimo commissario italiano, si sostituiva per calcoli di politica interna come la crisi di giugno e l'allontanamento di Tremonti, Rocco Buttiglione. Ovvio quindi che il Parlamento europeo, oltre a sentirsi storicamente debole, fosse prevenuto sia contro Barroso che contro la sua equipe, che proprio contro Buttiglione. E Buttiglione, colpevolmente, inconsapevole di tutto questo, parlò: l'omosessualità è un peccato. E Barroso incomincia a tessere le fila diplomatiche, lui debole di fronte ai deboli parlamentari. Ricorda la debolezza, ricorda che esistono responsabilità istituzionali, che non è il caso di provocare una crisi proprio prima che vengano firmati gli accordi di Roma, che devono, guarda i casi della vita, approvare proprio una debole Costituzione. Barroso non si rende conto che proprio sottolineando questo fatto fa presente al Parlamento europeo di avere l'occasione più unica che rara di prendere mille piccioni con una fava. Recuperare credibilità, difendere i valori europei di rispetto e coesistenza, contrapporsi allo strapotere delle politiche nazionali, fare uno sgarbo alla destra italiana e alla sua credibilità mondiale obbligare Barroso a ristrutturare tutta l'equipe. Ovvio che il Parlamento delle mille ragioni individuali, delle mille frazioni, inizia a contarsi come forza complessiva, a vendersi, a tirarsi dalla propria parte i titubanti, i liberali, ma anche alcuni popolari. Barroso, però, di questa cosa non se ne accorge. Cerca ancora di convincere Buttiglione a lasciare, come se il problema fosse ancora Buttiglione, scaricando così involontariamente su di lui ogni responsabilità. Ma il problema Buttiglione è infinitamente piccolo ora. Il problema, ripetiamolo, è l'arroganza delle politiche nazionali. Il problema è la reazione dell'Italia alle parole di Buttiglione, una reazione antiparlamentare, antidemocratica. Il problema è Barroso e la sua debolezza come rappresentante del Parlamento di fronte alle politiche nazionali. Evitando il voto parlamentare, Barroso non ha solo evitato una sconfitta della propria equipe, ma ha anche evitato di venire rimesso in discussione come presidente. Molti infatti ritengono che qualora la commissione fosse stata bocciata, Barroso avrebbe dovuto dimettersi, facendo ripartire tutto da zero. Cosa probabilmente eccessiva, ci vorrebbero almeno 6 mesi prima di ritrovare un accordo su di un nuovo successore di Prodi, 6 mesi in cui l'Europa sparirebbe dal mappamondo. E a Barroso ora non resta che riformare la propria equipe, cercando di trovare non solo l'accordo politico sui candidati, ma anche una specifica competenza e credibilità nella materia per cui saranno responsabili. Resta un'ultima considerazione da fare. Jacques Santer, il predecessore di Prodi, è stato costretto alle dimissioni. Il successore di Prodi, Barroso, si impelaga a partire dal giorno zero. Prodi ha gestito un quinquennio molto complesso, con passaggi delicatissimi come quello dell'euro. Alla luce di tutto questo bisognerà convenirne. Prodi ha fatto proprio un gran lavoro. Tito Gandini, reporter associati per AMI.